Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Pelle di rock messa in onda tre volte al giorno on Radio Tour the Moving Station. Allora, festeggiamenti per i Motorhead, che tra poco compaiono 25 anni insieme. Hanno registrato una cover di God Save the Queen dai Sex Pistols, che farà parte del nuovo album che verrà pubblicato a maggio. Ci saranno tante feste organizzate in loro onore e si spera che tra quelli che ne faranno parte e contribuiti saranno i Primal Scream e Skunk Anansie. Noi su Tam Tam Europe vi facciamo sentire una versione esclusiva dei Skunk Anansie. Vi ricordo il nostro indirizzo email per segnalarci i brani o gruppo da ascoltare in Tam Tam Europe: fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e da Fergal Kavanagh, questa è una versione acustica di Follow Me Down di Skunk Anansie. Cioè, ciao, alla prossima! Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Kavanagh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro, messo in onda quattro volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. Allora, la nostra redazione a Londra ci racconta che i Fun Loving Criminals hanno girato un promo a Hawaii, vestiti come poliziotti, anche se non avevano permessi né per impersonare i poliziotti né per portare delle pistole. Fortunatamente per loro, tutti hanno creduto che erano veri. Quest'anno sarà molto attivo per i Fun Loving Criminals, che apriranno un ristorante a Londra e che saranno riprodotti in cera al Rock Circus di Piccadilly Circus, e vi consiglio di andarci la prossima volta che vi trovate a Londra. If you want to call us here on Tam Tam Europe, the number is 081 790 1411, or send a message to 0348 24 38 888. That's it for now from Fergal Kavanagh on Radio Tour the Moving Station. I'll leave you with the Fun Loving Criminals and Couldn't Get It Right. Alla prossima. Tam Tam Europe. Tordo Morning Station 22:16, un'altra pillola di Tantam Europe. Fergal ha lavorato per noi e per voi in un'altra Daily Dose of Rock con la nostra redazione di Londra. Ce ne sono tre al giorno, questa era l'ultima per questa settimana. Le prossime le troveremo in aprile a partire da lunedì, due di pomeriggio e una di sera nell'appuntamento con RT per 106. Piccola pausa. SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello and welcome to Tantam Europe. This is Fergal Kavanagh che vi porta tutte le notizie del rock più belle dalla nostra redazione di Londra al centro dell'Europa. E adesso guardiamo un artista olandese che esplose sulle scene nel 98 col singolo Nobody's Wife. Of course I'm talking about Anouk, and her first album ha avuto così tanto successo che per scrivere il secondo ha sentito il bisogno di andare in Portogallo alla ricerca della tranquillità più totale, e il risultato potete sentirlo nell'ultimo album Suburban Solitude, 13 brani di vari stili diversi. Dice Anouk: per me è molto importante mettermi alla prova sperimentando nuove vocalità, nuovi stili. Non voglio dare ai miei dischi un connotazione troppo specifica. Mi piacciono tutti i generi musicali. Su Tantam Europe vi facciamo ascoltare il brano rock Are You Kidding Me, che parla di una donna che viene respinta dal suo uomo. Anouk insiste che è assolutamente non autobiografica, però si sente che comunque ci mette l'anima. Allora per adesso è tutto. Se ci volete chiamare il numero è 081 790 1411 o potete inviare un messaggio al 0348 24 38 888. Vi lascio con Anouk e Are You Kidding Me. Alla prossima. Tantam Europe. Where has could still be friends. Che credo di essere l'unico degli speaker di questa radio che ancora non è andato a verificare, non è andato a vedere, non è andato ad ammirare la redazione di Londra. Mannaggia, devo fare qualcosa. Se per una settimana non dovesse sentirmi, beh, vuol dire potrei però trasmettere da lì. Bella idea che mi è venuta, ma sono veramente figo. Grazie alla nostra redazione di Londra. Tantan Europe si conclude qui. Grazie a, come cavolo si chiama, Fergal Kavanagh o Kavanagh, non mi viene mai. Grazie a lui naturalmente. Ma ci credete sempre com'è. Era sì, ragazze, è buono, ma state tranquille, state buone, per favore. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo su Tam Tam Europe. Quattro pillole al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E il rocker canadese Bryan Adams ha molto da festeggiare in questo periodo. È dal 91 che non riesce ad arrivare in cima alla classifica inglese, quando ha passato un'incredibile 16 settimane al numero 1 con Everything I Do It For You, dal soundtrack di Robin Hood. E da allora ha fatto uscire ben due raccolte di Greatest Hits, ma i Great Hits dov'erano? Ha perfino fatto una collaborazione con Mel C delle Spice Girls, ma ha perso il numero uno per poco. Adesso si è ritrovato al capo classifica dopo 9 anni, ma non con una delle sue solite canzoni rock, ma come guest vocalist per un gruppo inglese, Chicane, sul hit Don't Give Up. Immagino che Brian si trova su Cloud 9, cioè nuvola numero 9, un modo per dire felicissimo. Sul Tam Tam Europe vi salutiamo e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.radiotour.it. Da Fergal Kavanagh, questo è Bryan Adams e nuvolo numero 9, Cloud 9. Alla prossima! Tam Tam Europe. Number one was when ci ha riempito di altre curiosità inerenti il mondo della musica, non solo italiana ma anche internazionale, quindi ci ha proposto Bryan Adams, che stiamo ascoltando ancora in sottofondo. Questa è Radio Tour The Movie Station, l'appuntamento Baci in Tour con me che sono Jackie, e insieme al fiorfiore dei DJ, dei tecnici in regia questo pomeriggio. Facciamo una piccola pausa, ci risentiamo tra pochissimo. S-P-O-T Spot Radio Tour The Movie Station present Tam Tam Euro, suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and this is Tam Tam Europe, your daily dose of rock. Broadcast three times a day, keeping you up to date with what's going on in the world of rock e non solo. E sta avendo molto successo sia in America che in Inghilterra l'ultimo brano di Filter, intitolato Take a Picture. In un'intervista, Richard Patrick, l'autore del brano, ha raccontato di come è nato il brano. Racconto del giorno in cui ha capito che ero un uomo libero. Ero su un aereo, mi alzai, mi sono spogliato e ho corso per tutto l'aereo completamente nudo. Naturalmente mi hanno fermato, ma era semplicemente un messaggio di libertà che volevo mandare al mio corpo e alla mia anima. Che roba da rockstar! E il leader di Filter ha anche raccontato di quanto gli dà fastidio quando la gente lo ricorda come membro del gruppo di Trent Reznor, i Nine Inch Nails. I'm proud to have achieved credibility in Nine Inch Nails, but Filter is my group. My songs are about me, they are about Filter. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe dalla nostra redazione di Londra e do Fergal Kavanagh e tutto. Vi lascio con Filter, do l'album title of record e Take a Picture. Alla prossima! Tam Tam Europe. Il filtro ai timpani per Non vorrei usare il verbo sopportare perché potrebbe essere interpretato come un fatto negativo, però ci vuole un po' il filtro, ecco, per incamerare, almeno per quanto mi riguarda, questa energia. A quest'ora della sera, ma un'altra grande bella pillola di rock, grazie a Fergal e la nostra redazione di Londra con Filter, è per questo che neonizzavo fondamentalmente su questo oggetto, che a volte ci permette anche di filtrare un po' le situazioni. Mi sto riferendo chiaramente al telefonino, la possibilità di spegnerlo quando vogliamo, e guai a chi non lo fa nei momenti che dedichiamo a noi stessi. Grazie a Fergal e grazie a Tantam Europe, la prossima a domani pomeriggio. SPOT Spot Radio Tour, the moving station, present Tantam Europe, suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tantam Europe, le pillole che vanno in onda tre volte al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Allora, una notizia che arriva dalla BBC e dal programma This is Your Life, o Questo è la tua vita. Questo programma racconta la vita di un personaggio famoso facendogli una festa a sorpreso dove partecipano tante persone della vita sua passata e attuale. L'ultimo ad essere stato proposto per questo programma è stato Fatboy Slim, che purtroppo l'ha rifiutato l'invito. Suo padre, Ronald Cook, dice che Fatboy Slim sarebbe spaventato da un onore del genere, che non gli piace essere alla ribalta. Dice, it's awfully embarrassing dredging up people from your past. Allora, su Tam Tam Europe, let's pay tribute to Fatboy Slim with one of his biggest hits, aspettando il suo nuovo album on Live Mix, which is coming out soon. Per adesso è tutto dalla nostra redazione a Londra e dal Fergal Kavanagh vi lascio con Gangster Tripping di Fatboy Slim. Alla prossima! Tam Tam Europe. What do we win if what do we win if fat boys slip it? Abbiamo da poco ascoltato la pillolina Tantam Europe, grazie a Fergal, ringraziamo anche la nostra attiva redazione di Londra. Facciamo una piccolissima pausa e tra poco sarà tempo di baci in tour. SPOT Spot nel cuore dell'Europa. E la rivista inglese NME reviewed a concert by Blink-182 at the Astoria in London recently. Li hanno paragonati a South Park, cioè rock contro la responsabilità, i quali dicono soltanto sciocchezze per immaturità. Durante il concerto hanno parlato del loro membri, di come uno ha, diciamo, conosciuto la mamma dell'altro, e hanno suggerito che l'Inghilterra si unisse con l'America per bombardare il resto dell'Europa. Su Tam Tam Europe vi facciamo ascoltare il loro singolo All the Small Things, che si riferisce ai piccoli gesti d'affetto tra amanti, e secondo l'NME is proof that inside every dickhead there's a wuss who craves female approval. Per adesso è tutto, ringrazio la redazione di Londra di Radio Tour The Moving Station e vi invito a visitare il nostro website www.radiotour.it. Da Fergal Cavanagh è tutto, vi lascio con i Blink 182 e All the Small Things, tutte le cose piccole. Alla prossima! Tam Tam Europe. Sono le 17:15. Noi su Radio Tour facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, ci saranno i baci in tour. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Phil the Rock messo in onda tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. E Debbie Harry è tornata a lavorare nel mondo del jazz. Vi ricordate che nel 96 ha registrato con i Jazz Passengers? Questa volta con Ray Nathanson, anche coinvolto nei Jazz Passengers, che ha creato un album nel quale racconta le storie della vita di vari personaggi. Si intitola The Fire at Keaton's Bar and Grill e Debbie Harry fa la parte della barista. Nell'album ci sono anche Elvis Costello e Richard Butler, ex del Psychedelic Furs, e si parla anche di una live performance e un video. Invece ci sono problemi legali per i Blondie. Sono in tribunale con l'etichetta EMI per royalties non pagate. Remember, if you want to send me an email, my address is fergal@radiotour.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Cavanagh, vi lascio con the title track of Blondie's last studio album. Questo è No Exit. Alla prossima. Tam Tam Europe. There's no sin in this. Let's get the girls and get the sisters. Pinch him up and give him blisters. Kiss and fierce with all his might forever. Standing on the verge of the edge of the land. Wait for me to fall. Then I got a call that said, wait, hold up, homie. You must be tripping. You can't be putting that stiffing and whipping up in your pimping. You better stand tall. Fool, you was born to ball. Took a little fall. And now you want to end it all. You've been chasing dreams like a hound dog on the hunt. Take a place in the I know they laughing, but you'll be laughing later. The stocks gon' get greater. Then, when you least expect it, you understand there is no exit. Hey, yo, rock that shit. Slam dance to this, move the f- back when you see us in the mosh pit. Smash something with my heavy metal rap stomping. Crack more heads open and vex. You and your man floated tails from the crib. Rocky Horror couldn't picture it. Spine singling, give you goosebumps singing it. Cheap niggas get the party with the infamous. We jumping over the bar, snatching mad liquors. Out of the darkness, spark this total chaos. Mark the skin the hardest. Nothing could save us, all that is sacred. Dilly departed, brave our slave bank contains something courageous. Salute shining armor, persona rip stages. Life is nirvana, beneath the golden ages. The road rats explode, no render that devour. Don't cry for me, I'm proud, drunk off the power. The power, the power. Small remains untamed. AB out for the cash while you out for the fame. Lay back, count on my stack, down the Kodiak. Writing my raps, here, hold that, invaluable plaque. With my pen hits, relentless, whatever I spit. Like a fresh pair of kicks out of the box, ready to buy. You know they collaborating with my committee. Then it's on the yeah. LIE, the Q3 yeah. City. We storm the sound class, but none heard the sound of the blast. Send the mass out of control, the system found smash. There's blood on the dance floor, they still chant for the nitty gritty, New York in the city. 50 caliber thoughts force the world to bang with me. Bound to hit hard like 20 guards bitching in the yard. Minute odds, take charge. Out to make odds and take odds. Before it gets all odds, party crasher. Verbal assault, quick to blast her. You're stunned momentarily, drop seconds after. After. È tosto tosto questo pezzo che ci ha proposto Fergal, grazie, ringraziamo lui, la nostra redazione di Londra, che ci ha proposto Tam Tam Europe e Blondie. Il singolo che stiamo ascoltando si intitolava No Exit. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Phil the rock messo in onda tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. E su Tam Tam Europe abbiamo già parlato di tutte le collaborazioni di Skin nell'ultimo periodo. In questo Phil, Ace, chitarrista di Skunk Anansie, ci racconta delle collaborazioni di Skin e delle sue con Saturnino e di come gli piace suonare con gli amici. Skin's done a song with Maxim from The Prodigy lately, and she did that Italian Rent. I played on an album for a guy called Saturnino, who you must have heard of in Italy. He's a Jovanotti's bass player. And, we, you know, every time we get a good, interesting project, usually it's friends of ours, you know, we're going to do something. That's it for the moment from Fergal Kavanagh and Tam Tam Europe on Radio Tour, the moving station. Vi lascio con Skunk Anansie e Hedonism. Alla prossima. Tam Tam Europe. con Anzi, con Hedonism. Bellissima canzone. No, spero che l'ho pronunciato in un altro modo. Aspetta che devo dirlo uguale. Hedonism. No, non ci sono riuscito. Hedonism. Vabbè, poi me lo faccio insegnare per bene appena torno in onda la prossima settimana. Era Tom Tom Europe, suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. L'appuntamento con il rock e con le pillole che questa settimana riguardano le interviste che abbiamo realizzato con i componenti della band Skank Nancy, appunto, tornano alle 19:10. SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo su Tam Tam Europe. Tre pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E Alanis Morissette ha interpretato due monologhi alla presentazione di Vagina Monologues di Eve Ensler al West Side Theater di New York. Uno su una donna violentata con un fucile in Bosnia, durante il quale Alanis non ha trattenuto le lacrime. Il secondo, più audace, le vedeva in preda al desiderio e le star non si è tirate indietro di fronte a forme espressive molto forti. L'intera ricavata dell'operazione è stato devoluto a favore delle donne che soffrono di violenze subite. E intanto aspettiamo l'arrivo del nuovo materiale di Alanis, previsto per la primavera del 2001. È stato annunciato da Maverick Records, di proprietà di Madonna, che Alanis entra in studio ad incidere a giugno. Ma se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 1411, o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Vi lasciamo con Alanis Morissette e That I Would Be Good. Da Tam Tam Europe e da Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Questa canzone non puoi fare nessun commento. Devo dire che la chitarra parla da sola. lei va bene, insomma. Alanis Morissette è qualcosa di particolare, di pazzesco, e non solo nelle produzioni quelle confezionate in sala di registrazione, ma come potete ben sentire, crea emozioni anche così, unplugged. Allora, grazie al nostro Fergal Kavanagh che ci regala sempre bella musica, e non solo, ma anche belle storie legate alla musica, come quella che avete sentito in questo caso, dalla nostra redazione di Londra, Tamtam Europe. Scusate, sono praticamente emozionato e anche un po' raffreddato, l'allergia è arrivata. Tutto su un botto. 19:19, Radio Tour The Moving Station. Ragazzi, attenzione, un po' di pubblicità, ci risentiamo tra pochissimo. SPOT. Spot.